Il professor Martinelli lo presento per chi non ha frequentato il mio corso, perché durante il mio corso io ne ho parlato ripetutamente e molti di voi ne hanno studiato il libro, quindi per la maggior parte di voi non c'è bisogno. Per i ragazzi del laboratorio della statale della facoltà di storia, qualche notizia. Il professor Martinelli è stato lo storico preside di questa facoltà ed è uno dei maggiori sociologi e politologi italiani conosciuti all'estero. E ha pubblicato una serie di libri tradotti, fra cui ho scelto il libro che voi studiate. È stato un po', lui non lo sa, ma è stato un mio maestro distante, nel senso che io ho sempre letto e studiato le cose che pubblicava, pur stando in una città abbastanza distante, quindi in qualche modo c'è un antico debito intellettuale nei suoi confronti.